Le figlie di Erin. Prega Rognone di Bloom, per noi. fiore del bagno, Prega per noi. mentore di Menton, Prega per noi. agente del Freeman, Prega per noi. massone caritatevole, Prega per noi. sapone errante, Prega per noi. dolcezze del peccato, Pregate per noi. musica senza parole, Prega per noi. rampognatore del cittadino, Prega per noi. amico di tutta la biancheria di Pizzo, Prega per noi. levatrice misericordiosa, patata Prega per noi. preservatrice contro la pestilenza, Prega per noi. un coro di 600 voci, diretto da Vincent O'Brien, canta il coro del Messia di Handel. Alleluia, il Signore Dio Onnipotente regna, accompagnato all'organo da Joseph Glynn. Bloom è ammutolito, avvizzito, carbonizzato. Zoe, parla, parla fino a farti nero in faccia. Bloom, cappellone irlandese e pipa di creta infilata nella fascia, scarponi impolverati, fagotto da emigrante in un fazzoletto rosso annodato in mano, si tira dietro con una fune un porco color nero torba, con un sorriso negli occhi. Lasciatemi andare ora, o sposa, perché per tutti i caproni di Connemara mi daranno una lavata di testa coi fiocchi. Con una lacrima nell'occhio. Tutto è follia. Patriottismo, dolore per i morti, musica, futuro della specie. Essere o non essere. Il sogno della vita è finito. Terminarlo in pace. E gli altri vivano a loro posta. Guarda lontano dolorosamente. Sono rovinato. Qualche pasticca d'aconito, le tendine abbassate, una lettera, poi stendersi e riposare. Respira piano. Non più. Ho vissuto. Vale. Addio. Zoe. Seccamente, con un dito sotto il nastro che ha al collo. Proprio vero? Fino alla prossima volta, ghigna. Magari sei sceso dalla parte sbagliata del letto. O sei venuto troppo presto con l'amica del cuore. Oh, ti so leggere il pensiero. Bloom, amaramente. L'uomo e la donna. L'amore. Cos'è mai tutto questo? Un tappo e una bottiglia. Ne ho le tasche piene. Vada tutto al diavolo. Zoe, facendo a un tratto il muso. Non posso soffrire un vizioso ipocrita. Un po' di rispetto per una fottuta puttana. Bloom, pentito. Sono molto sgarbato. Sei un male necessario. Di dove sei? Di Londra? Zoe, con scioltezza. Di Ox Norton, il paese dei porci, dove i porcellini suonano l'organetto. Sono nata nello Yorkshire. Trattiene la mano di lui che le cerca il capezzolo. Allora, Pierino Pizzicorino, smettila e comincia sul serio. Ce l'hai i soldi per farne una alla svelta? 10 scellini. Bloom sorride, annuisce lentamente. Di più, Miauri, di più. Zoe, ma davvero? Disinvolta, gli dà dei colpetti con le zampe di velluto. Vieni nel salottino a vedere la nostra pianola nuova. Vieni, che io mi tolgo il camicino. Bloom. Tastandosi dubbiosamente l'occipite con l'impareggiabile imbarazzo di un ambulante imbambolato che calibra l'imponente camino senza camicino di lei. Qualcuna di mia conoscenza sarebbe terribilmente gelosa se lo sapesse. Il mostro dagli occhi verdi. Seriamente, sai com'è difficile. Non c'è bisogno che te lo spieghi. Zoe, lusingata. Occhio che non vede, cuore che non duole. Gli dà un colpetto. Vieni. Bloom, strega ridente, la mano che dondola la culla. Zoe, bamboccione. Bloom, in camiciole e pellicciotto, con un gran testone e una calotta di capelli neri. Fissa grandi occhi sulla sua combinazione fluida e ne conta le fibbie di bronzo con un dito paffuto la lingua umida pendula e balbettante. Uno, due, tre, tre, due, l'uno. Le fibbie. Mama, non mama, mama. Zoe, chi tace consente. Con piccole artigli a ventaglio gli afferra la mano. L'indice traccia sulla palma il segno convenuto dell'inviato segreto, adescandolo verso la sua dannazione. Mani calde, gozzo freddo. Egli esita in un turbine di odori, musica, tentazioni. Ella lo guida verso gli scalini, attirandolo con l'odore delle ascelle, il vizio degli occhi dipinti, il fruscio della combinazione dalle cui pieghe sinuose guata il fortore leonino di tutti i bruti maschi che l'hanno posseduta. I bruti maschi, esalando solfuri di foglie e di letame e dimenandosi nello stallo, ruggendo appena, le teste narcotizzate, ondeggianti di qua e di là. Buona! Zoe e Bloom raggiungono la soglia su cui siedono due consorelle puttane. Lo esaminano curiosamente da sotto le sopracciglia dipinte e rispondono con un sorriso al suo inchino frettoloso. Egli inciampa goffamente. Zoe, la sua mano felice, lo salva a tempo. Opla! Non cascare all'insù! Bloom. Il giusto cade sette volte. Si fa da parte sulla soglia. Dopo di lei, così vuole la buona educazione. Zoe. Prima le signore, poi i signori. Ella varca la soglia. Egli esita. Lei si volta e, tendendo le mani, lo tira dentro. Lui fa un salto. Nell'anticamera, su un attaccapanni a corna di cervo, stanno un cappello e un impermeabile da uomo. Bloom si scopre, ma, vedendoli, si acciglia. Indy sorride preoccupato. S'apre di colpo una porta sul pianerottolo del mezzanino. Un uomo in camicia violacea e pantaloni grigi, calze marrone, passa con andatura scimmiesca, la testa calva e la barbetta caprina alzate al soffitto, stringendo una brocca caraffa piena, bretelle nere a due code e ciondoloni sui tacchi. Volgendo velocemente la testa, Bloom si china a esaminare sul tavolino gli occhi da spaniel d'una volpe in corsa. Indy, fiutando a testa in su, segue Zoe nel salottino. Un paralume di carta velina lilla attenua la luce del lampadario. Intorno vola una falena, urtando, sfuggendo. Il pavimento è coperto da un'incerata mosaico di romboidi giada, azzurro e cinabro. Vi sono impresse in tutti i sensi impronte. Tallone a tallone a lato, dito a dito, piedi uniti, una muresca di piedi ciabattanti, senza fantasmi dei corpi, tutti in un confuso parapiglia. I muri sono tappezzati di carta con fronde di tassi e radure sgombre. Davanti al caminetto si schiude uno schermo di penne di pavone. Lynch è accosciato a gambe incrociate sulla stuoia del caminetto dal pelo ammassato, la visiera del berretto sulla nuca. Con una verga batte lentamente il tempo. Kitty Ricketts, una pallida puttana ossuta, vestita alla marinara, guanti di daino rimboccati per lasciar vedere un braccialetto di corallo, una borsetta di maglia metallica in mano, sta appollaiata sull'orlo del tavolo facendo dondolare una gamba e guardandosi nello specchio dorato sopra il caminetto. Un puntale della stringa del suo busto si vede spuntare appena sotto alla giacca. Lynch indica beffardo la coppia al piano. Kitty tossisce dietro una mano. È un po' tucca. Fa un cenno agitando l'indice. Blam blam. Lynch le solleva gonnelle sotto veste bianca con la verga. Lei le riabbassa rapidamente. Abbi rispetto di te stesso. Rutta. Indy abbassa alla svelta il cappello alla marinara sotto cui ardono i capelli, rossi all'ennè. Oh, scusa. Zoe. Un po' più di luce alla ribalta, cocco bello. Si avvicina al lume e apre il rubinetto del gas al massimo. Kitty scruta la fiamma. Che male lo affligge stanotte. Lynch, voce profonda. Entrano uno spettro gnomi. Zoe. Una è viva per Zoe. La verga sfavilla in mano a Lynch. un attizzatoio di ottone. Steven è in piedi accanto alla pianola su cui giacciono cappello e bastone. Con due dita ripete ancora una volta la serie delle quinte vuote. Flory Talbot, bionda puttana debole e grassottella, in una veste da camera sfilacciata, color fragola muffita, se ne sta spampanata in un angolo del sofà, l'avambraccio rilasciato allungato sul traversino, in ascolto. Un grosso orzaiolo le appesantisce la palpebra sonnolenta. Kitty rutta ancora scalciando in terra col piede cavallino. «Oh, scusa!» Zoe prontamente. «Il tuo amico pensa a te. Fatti un nodo alla camicia!» Kitty Ricketts abbassa la testa. Il suo boa si svolge, si sfila, le scivola di sulle spalle, la schiena, il braccio, la seggiola, fino al pavimento. Lynch solleva il bruco arricciolato sulla sua verga. Lei asserpentina il collo, ci si rannicchia come in un nido. Steven lancia uno sguardo dietro di sé alla figura accosciata con la visiera del berretto sulla nuca. Steven, sta di fatto che è rilevante, se Benedetto Marcello l'abbia trovato oppure creato. Il rito è il riposo del poeta. Può essere un vecchio inno a Demetra, oppure può illustrare Cela in arrant gloriam domini. È suscettibile di nodi o di modi distanti tra loro quanto l'iperfrigio e il misolidio, e di testi divergenti come i sacerdoti bercianti attorno all'altare di David, ossia di Circe, ma che dico, di Cerere, e l'informazione infallibile che David diede al primo fagottista riguardo all'onnigiustezza della sua onnipotenza. Me, non de non, questo è un altro par di maniche. J'étais la gourme, faut que jeunesse se passe. Si ferma, indica il berretto di Lynch, sorride, ride. Da che parte ce l'hai, il bernoccolo della conoscenza? Il berretto, con umore saturnino. Bah, così stanno le cose. Ragionamento da donna. Ebreo greco è greco ebreo. Gli estremi si toccano. La morte è la più alta forma di vita. Va. Steven. Ricordi con una certa precisione tutti i miei errori, le vantirie, le sviste. Quanto dovrò continuare a chiudere gli occhi all'infedeltà? Mola dal rotino. Il berretto. Va. Steven. E c'è dell'altro. Si acciglia. La ragione è che la tonica e la dominante sono separate dal più grande intervallo possibile che... Il berretto. Che? Finisci? Non ce la fai! Steven, con uno sforzo. Intervallo che è la più grande ellisse possibile, che corrisponde al ritorno definitivo. L'ottava, che... Il berretto. Che? Fuori il grammofono comincia a strombazzare la città santa. Steven, bruscamente, quello che è andato fino all'estremità del mondo per evitare di traversare se stesso. Dio, il sole, Shakespeare, un commesso viaggiatore, avendo se stesso in realtà attraversato se stesso, diviene quel se stesso. Aspetta un momento, aspetta un secondo. Al diavolo il rumore per la strada di quel tale. Quel se stesso che se stesso diventar doveva per un ineluttabile precondizionamento. Ecco. Lynch, con un beffardo nitrito di riso, ghigna a Bloom e a Zoe Higgins. Che dotta orazione, eh? Zoe, vivacemente. Dio ti salvi, ne sa più di quanto tu ne abbia mai saputo. Con obesa stupidità, Flory Talbot considera Steven. Flory. Dicono che quest'estate ci sarà la fine del mondo. Kitty. No! Zoe scoppia in una risata. Gran Dio ingiusto! Flory, offesa. Beh, ne parlavano i giornali. L'anticristo. Oh, mi prodo il piede. Strilloni scalzi e cenciosi, scuotendo un aquilone dalla coda tremula, passano trepestando, gridando. Gli strilloni. Ultima edizione! Risultato delle corse dei cavalli a dondolo! Serpente marino nel canale reale! Felice arrivo dell'anticristo! Steven si volta e vede Bloom. Steven. Una battuta. Più battute. E mezza battuta. Reuben J. Anticristo. Ebreo errante. Una mano stretta contro la spina dorsale. Avanza zoppicando. Attraverso le reni ha una bisaccia da pellegrino, da cui spuntano dei pagherò e delle tratte a vuoto. Alta, al di sopra della spalla, porta una pertica, da cui pende, infilata per il fondo dei pantaloni al rampino, la massa grondante in forme del suo unico figlio, ripescato dalle acque della Liffey. Un ognomo, a immagine di Punch Costello, coxalgico, gibboso, idrocefalico, prognatico con fronte sfuggente e nasone alla Alice Loper, saltabecca di qua e di là nell'oscurità che si addensa. Tutti. Che cosa? Lo gnomo, facendo schioccare le mascelle, caprioleggia di qua e di là, strabuzzando gli occhi, squittendo, cangureggiando, con braccia rapaci tese in avanti. Indi caccia un tratto la faccia senza labbra in mezzo alla forca delle cosce. Il vient, c'est moi, l'homme qui rit, l'homme primigène. Volteggia intorno con strida da derviscio. Sieurs dames, faites vos jeux. Si accoccola e fa giochi di prestigio. Gli scappano di mano piccoli gettoni da roulette. Les jeux sont faits. I gettoni cozzano tra loro, emettendo dei crepitii. Rien va plus. I gettoni, palloni levitanti, si gonfiano e si alzano a volo. Lui spicca un salto nel vuoto. Florrie, affondando nel torpore, facendosi di nascosto il segno della croce. La fine del mondo! Un tepido effluvio femminile trasuda da lei. Una oscurità nebulosa occupa lo spazio. Fuori, attraverso la nebbia alla deriva, il grammofono strombazza al di sopra dei colpi di tosse e del fruscio di piedi.